Perché tocca sempre a me? Credo che ce la siamo fatta diverse volte questa domanda. Puoi apparecchiare per favore? Mamma, non può farlo mio fratello? Metti in ordine la camera. Perché devo pensarci io? Non può pensarci lui? Ma queste forse sono cose da bambini. È solo che crescendo le cose forse si complicano perché i rapporti diventano anche più difficili rispetto a quando eravamo bambini. E allora spesso ci siamo chiesti: tocca a me oppure tocca a lui fare il primo passo? Io credo che anche Gesù in un certo senso ce ne abbia parlato, quando ad esempio ha detto non rispondere al male con il male, porgi l'altra guancia. Ecco, forse questa frase potrebbe significare proprio questo, sii tu a fare il primo passo. Ma perché devo essere proprio io a fare il primo passo? Eppure ci sono volte in cui, cavolo, siamo proprio convinti di essere noi nella ragione e l'altra persona nel torto, per cui a quel punto perché dobbiamo essere noi a fare il primo passo? Ma convinti non nel senso che pensiamo di essere sempre nella ragione e l'altro sempre nel torto, no, convinti proprio in quella situazione concreta. Magari abbiamo parlato di quel problema con una, 5-10 persone e tutte ci hanno detto sì, sei nel giusto, hai ragione tu, dovrebbe essere lui a fare il primo passo. Anche in quel caso dovremmo essere noi a fare il primo passo, cioè chi deve farlo, chi ha ragione o chi ha torto? Non dovrebbe per primo muoversi chi è la causa del problema? Ferma tutto, a questo punto credo che sia importante valutare se non sia necessario un cambio, anzi due cambi di prospettiva molto profondi. Il primo credo che sia un cambio di prospettiva profondissimo e se ci riusciamo faremo un salto evolutivo veramente importante. Ecco, il primo cambiamento credo che sia questo: smettere di cercare chi ha ragione e chi ha torto, anzi ancora di più smettere proprio di ragionare in termini di ragione o di torto, perché quando si parla di rapporti umani, ragione e torto, tante volte credo che ci siamo resi conto che siano concetti labili, fumosi, a volte anche dannosi, negativi, tossici. Non avete fatto anche voi qualche volta l'esperienza di come la ragione possa essere un'arma che distrugge la relazione? Personalmente tante volte, e se mi guardo indietro mi rendo conto come molte volte il fatto di pensare di aver ragione mi ha fatto comportare in modo duro, meccanico, in modo inumano, togliendo serenità sia a me sia agli altri, perché quando si pensa di aver ragione si rimane soli, il rischio è quello, magari si rimane con la ragione, però si rimane soli. Questo primo passo comporta il farci una domanda molto profonda: preferisci avere ragione oppure preferisci essere felice? Preferisci continuare il confronto per capire chi ha ragione e chi ha torto? Oppure preferisci costruire una relazione serena? Preferisci continuare una lotta estenuante in cui ciascuno conserva, difende il proprio punto di vista? Oppure vuoi cercare di fare un viaggio per entrare alla scoperta del mondo interiore dell'altro, di come ragiona e soprattutto di quello che sente, di quello che prova? Ok, alla luce di questo resta però la domanda: alla fine chi deve farlo questo benedetto primo passo? Perché potrei continuare a pensare: ok, tutte queste cose che dici, ma come mi pongo io queste domande? Non se le dovrebbe porre anche lui e provare anche lui allora magari a prendere l'iniziativa? Credo che questa domanda ci porti al secondo cambiamento di prospettiva, ovvero forse il primo passo non tocca a chi ha ragione e non tocca neanche a chi ha torto, non tocca a chi si è fatto queste domande o a chi non se le ha fatte, non tocca né a me né a te. Forse il primo passo tocca in realtà a chi ha a cuore il rapporto. Se io ho a cuore quel rapporto, credo che verrà naturale arrivare a pensare che in fondo il cambiamento tocca a me. proprio perché ho a cuore quel rapporto e credo che questo sia un secondo cambiamento evolutivo molto profondo. Perché una volta che siamo usciti finalmente da quella logica perversa e divisiva, che è la logica della ragione e del torto, e credo che rimangano queste due domande: io ci tengo a quella persona? Io ci tengo a quella relazione? Se la risposta è sì, la conseguenza è soltanto una. Tocca a me l'onere e l'onore di provare a fare il primo passo, di provare a cambiare. Tocca a me provare ad introdurre in quel rapporto, nella famiglia, in quel gruppo, quel piccolo cambiamento, quella piccola azione diversa che possa finalmente creare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso nel rapporto. Riassumendo, prova innanzitutto a pensare a qualche situazione, a qualche rapporto in cui ci sono dei problemi e prova soprattutto a smettere di pensare in termini di ragione e di torto. Secondo, chiediti, io ci tengo veramente a quella persona e a quella relazione? Se la risposta è sì, chiediti allora, preferisci aver ragione oppure preferisci essere felice e cercare di introdurre qualcosa di nuovo che possa creare un cambiamento positivo per entrambi e per il vostro rapporto? E infine, se preferisci la felicità alla ragione, chiediti oggi stesso, in questo momento, qual è quella piccola cosa che posso iniziare a fare? Quella piccola cosa che forse potrà innescare un cambiamento positivo per entrambi e per il nostro rapporto. Quale elemento di novità posso introdurre nel rapporto per far capire finalmente all'altro che ci tengo a lui ed è per questo che sto facendo il primo passo? Lascia un mi piace, condividi questo video con tutti i tuoi amici e iscriviti al canale attivando la campanella. E se vuoi vai anche su comunicaresorrisodidio.it nella sezione iscriviti e lascia il tuo indirizzo email se vuoi essere informato di tutte le novità.